Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Buongiorno e ben ritrovati da Gigi Donelli, ma anche da Alessandro Schirano, da Roberta Frisani in regia, da tutti noi insomma, al termine di una settimana che, è inutile dirlo, è stato dominato da questa vicenda, appunto dall'esplosione letterale del coronavirus Covid-19 in Italia. Io vorrei cominciare da un punto, visto che qui partiamo e parliamo di Europa, facendovi sentire una voce che appunto fa parte della nostra settimana, è stata nostra ospite nelle trasmissioni, è la direttrice del laboratorio di diagnostica delle bioemergenze nell'ospedale milanese Luigi Sacco, Maria Rita Gismondo, su un passaggio, diciamo, di taglio prettamente europeo. In un mondo globalizzato è già piccolo il sistema Italia. Dovremmo essere organizzati, soprattutto per i grandi temi, e la salute è questa, proprio a livello mondiale. Io avrei auspicato, in attesa del coronavirus, che noi tutti del settore, noi tutti esperti, eravamo convinti che sarebbe arrivato, avrei auspicato un coordinamento a livello europeo, internazionale. Abbiamo perso questa chance perché ovviamente c'è un'autonomia di tutti gli stati di organizzarsi come meglio credono. Io parlo dal punto di vista tecnico. Oggi non si può parlare di frontiere di organizzazione sanitaria, frontiere di virus che arrivano comunque, frontiere di interventi. Io mi riferisco a un problema del quale non si parla più, le vaccinazioni. È assurdo che si abbiano frammentazioni in un territorio con bambini vaccinati con un tipo di vaccino e altri che invece non hanno accesso. Quindi guardiamo la sanità in prospettiva e questa lezione sarà importante in un'organizzazione internazionale. Lo ricordo, era Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di diagnostica del Sacco. Lei parla dunque della lezione. Io credo che davvero a questo punto ci sia sicuramente più di una, forse, ma una lezione da trarre. L'Unione Europea su questo punto è stata completamente in balia degli eventi. Allora possiamo spiegare serenamente che non esiste una politica sanitaria europea ancora, ma che sicuramente possiamo aggiungere l'esigenza che invece questa si formalizzi, si realizzi, appare oggi più forte che mai. Noi sappiamo, abbiamo dei vantaggi come cittadini europei, con la nostra carta blu andiamo in qualsiasi paese dell'Unione, abbiamo diritto a essere curati, trattati, ma nel momento in cui si entra su quegli elementi che sono sì sanitari, ma non neghiamolo, anche come dire, psicologici, anche politici, come quello che sono appunto le malattie infettive, che hanno delle caratteristiche tutte particolari, allora il sistema va in tilt. Nel frattempo, e parlo proprio delle ultime ore, la Commissione Europea, che lo ricordiamo, è l'esecutivo di fatto degli Stati, ha comunicato che coordinerà l'analisi sull'impatto economico della diffusione del coronavirus in Europa. Ora, è una comunicazione legittima e in qualche modo anche ci fa sorridere, nel senso che la nostra capacità di ragionare sulla parte economica è piuttosto alta. Allora la Commissione ritrova il suo ruolo, ma fino ad oggi e soprattutto nei giorni scorsi la priorità in realtà era un'altra, su un'emergenza. Comunque la Commissione dice: abbiamo già avvertito l'impatto sul turismo, sul trasporto aereo ed è solo l'inizio. E noi davvero dall'Italia possiamo dire che la cosa ci è ben chiaro. Così ha detto il commissario Thierry Breton, ha aggiunto: 250.000 cinesi non hanno viaggiato tra gennaio e febbraio, il che rappresenta una perdita di 2 milioni di pernottamenti verso l'Europa. I vettori europei sono interessati in maniera pesante. Il commissario Breton ha chiesto agli Stati membri di inviare i dati aggregati sull'impatto sulle catene di approvvigionamento. Come dire, in questo momento si raccolgono i dati da tutti e poi si traccerà sicuramente un rapporto che sarà dettagliato, che sarà probabilmente il white book della situazione. Davvero lo dico senza ironia, è un percorso che va fatto, però questo non risponde in alcun modo all'esigenza d'emergenza che abbiamo dimostrato di avere e che probabilmente torneremo ad avere prossimamente. Ora non voglio di nuovo fare dell'allarmismo, ma l'effetto combinato della globalizzazione, del fatto che per fortuna tutti noi a livello globale viaggiamo molto più di un tempo, insomma qualcosa ci deve suggerire. In questa puntata noi con i colleghi di Euronet Plus, Ermin Doncel, Joanna Neville e gli altri colleghi appunto della rete europea radiofonica Euronet Plus abbiamo deciso di raccogliere quelli che sono le voci e le riflessioni che vengono dall'Europa. Siamo all'inizio di un'epidemia di coronavirus in Germania. I nuovi casi nella Renania del Nord e Vestfalia e a Baden-Württemberg ne sono la prova. Le catene di contagio non sono completamente tracciabili e questo è un elemento nuovo. Un gran numero di persone è stato a contatto con i malati, perciò non sappiamo se la nostra attuale strategia, isolare il virus e cercare di interrompere le catene di contagio, continuerà a funzionare. Come potete vedere, e lo sottolineo ancora, stiamo prendendo seriamente l'emergenza coronavirus. Stiamo reagendo velocemente e in modo appropriato e soprattutto stiamo adattando la nostra risposta alle circostanze. Sfortunatamente, la situazione è cambiata nelle ultime ore. E questo era Jens Spahn, ministro della salute tedesco, al microfono dei colleghi di AMS. Adesso ci spostiamo in Lussemburgo, quindi rimaniamo di fatto non lontani e sicuramente sul confine tedesco e del Benelux. Il virus alla porta è stata un po' l'affermazione con cui sono risvegliati anche in Lussemburgo mercoledì. L'affermazione è di Paulette Lehner, il ministro della salute del Lussemburgo. Ma i colleghi invece di Radio 107, la nostra associata lussemburghese, hanno sentito Jean-Claude Schmitt, che è il direttore dell'amministrazione sanitaria del paese. Lo sentiamo subito. Le raccomandazioni sono chiare. Chi torna in Lussemburgo da un'area in cui il virus sta circolando e mostra sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie o tosse, dovrebbe riferirlo alle autorità sanitarie. Dopodiché, noi ci assicuriamo che queste persone vengano sottoposte a dei test il prima possibile. Non c'è totale assenza di rischio in queste situazioni. Dobbiamo agire in misura ragionevole e anche realistica. Non possiamo testare sistematicamente l'intera popolazione lussemburghese. È semplicemente impossibile. Anche qui c'è una parte della lezione che cercheremo di mettere insieme tutti noi europei nelle prossime settimane. Il Lussemburgo, che di sicuro non ha una grande popolazione, dice non possiamo testare tutta la popolazione, quindi immaginiamoci poi il discorso su scala ampia. Cosa viene fatto, come si reagisce? Qui abbiamo un altro esempio, Mateusz Morawiecki, che è il primo ministro della Polonia, quindi stiamo parlando di paesi di dimensioni ben diverse, con 40 e rotte milioni di abitanti. Lui parla di misure proattive, dice che, tanto per cominciare, tutti i polacchi di ritorno dall'estero, i polacchi viaggiano parecchio tra la Germania, l'Italia, l'Europa e il resto del mondo, riceveranno intanto un messaggio sul loro telefono e avranno un'informazione appunto sulle caratteristiche del coronavirus. Per le persone che tornano per via aerea dall'estero, abbiamo implementato ulteriori rilevazioni della temperatura. Le linee della LOT, la nostra compagnia aerea di bandiera, sono equipaggiate con termometri, in modo da effettuare questa diagnosi velocemente e correttamente. Questa è la Polonia. Il ministro della salute, peraltro di Varsavia, Lukasz Szumowski, ha evidenziato come, sebbene non ci siano ancora casi di coronavirus nel paese, i servizi sanitari sono pronti ad agire. E adesso spostiamoci un po' più a sud. Siamo appunto in un'altra zona a sud dei Balcani, la Romania. Romania che noi abbiamo in qualche modo registrato in questa settimana perché è stato uno dei primi paesi a dire alt, cominciamo con la quarantena degli italiani. Qualcuno si è anche agitato, ma vuol dire anche a che fare con la quantità di rapporti. Se voi guardate gli aeroporti del nord-est italiano e ovviamente quelli di Milano e dintorni, insomma i voli per la Romania sono davvero quasi come degli autobus. Comunque, il primo caso di coronavirus è stato confermato mercoledì in Romania, ovviamente. Il ministro dell'interno del paese, Marcel Vela, ha elencato così quelle che sono le direttive ufficiali. Istituire a quarantine Quarantena per chi arriva in Romania dall'Italia e allo stesso tempo isolamento volontario per chi si trova nelle aree dichiarate a rischio in Italia. E adesso la Lettonia, radio appunto Lettonia, Ilze Vinkel, il ministro della salute di quel paese. Abbiamo guardato il numero dei letti d'ospedale disponibili e agli spazi di cui disponiamo per isolare la gente durante il loro trattamento. A Riga, così come in tutto il paese. Se dovesse arrivare una prima ondata, potremo fornire cure a 100 pazienti. Dalla Lettonia torniamo verso casa, i nostri vicini della Slovenia, le istituzioni sanitarie, anche lì si stanno ovviamente preparando, sicuramente l'esperienza che hanno vissuto da buon vicinato di quanto accaduto in Italia questa settimana darà delle informazioni. Allora, dai colleghi di Radio Slovenia abbiamo Tatjana Lejko-Zupanč, che è direttrice del servizio controllo infezioni al Centro Medico Universitario di Lubiana. Questo incontro ha evidenziato che tutti gli ospedali in Slovenia si stanno preparando seriamente per possibili situazioni di crisi e che hanno messo a punto delle misure in modo da evitare il panico tra la popolazione. Infine, per i colleghi di Radio Bulgaria, ci ricordano che appunto il governo ha redatto un piano d'azione, ci ricordano anche che un recentissimo loro sondaggio ha mostrato quanto in realtà l'opinione pubblica anche della Bulgaria non sia al corrente in realtà di come comportarsi, cosa che ha spinto a sua volta la rete nazionale ad avviare, sempre sull'esperienza di quanto accaduto in Italia in questi giorni, dove la presenza bulgara è comunque significativa, una serie di comunicazioni appunto per evitare la parte peggiore di questa vicenda. Spagna, situazione sostanzialmente analoga, il ministro della salute spagnolo ha di fatto sospeso unilateralmente le comunicazioni sui casi, che sono state concentrate invece sul governo. Anche qui c'è una parte della storia che abbiamo vissuto, la moltiplicazione delle fonti, la difficoltà per l'opinione pubblica attraverso i media a distinguere dai casi, diciamo, entrati in contatto a quelli di malattia. Ecco che tutte queste esperienze, tutte queste riflessioni distribuite sui paesi dell'Unione ci ricordano che sicuramente abbiamo vissuto delle giornate complicate, che la questione non è che sarà chiusa in questo momento, ma di sicuro abbiamo e dobbiamo avere capito e cominciato a riflettere parecchio su quanto accaduto e una parte di sicuro che non si dovrà più ripetere. Adesso siamo alla fine di questo blocco davvero europeo tra radio europee. Nella seconda parte avremo invece una donna che è una vera, come lei stesso si definiva, sono un'europea di nazionalità italiana, una donna di grande successo che siamo molto contenti di avere con noi subito dopo la viabilità. Europa, Europa. Sono un'astronauta europea di nazionalità italiana. Non io ovviamente, era Samantha Cristoforetti. Lo ricordo benissimo, il giorno in cui fu nominata assieme a Luca Parmitano, entrarono a far parte dell'ultima, diciamo, generazione degli astronauti europei. Tanta acqua passata sotto i ponti, tante missioni, tanti voli, davvero due figure straordinarie di cui siamo orgogliosi e anche emozionati, perché ci hanno raccontato tante bellissime storie. Maria Piera Ceci ha parlato con Samantha Cristoforetti, ha parlato partendo da Erasmus, ma come sentite, di questo e di tanti altri temi. Sanno tutti chi è Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea dal 2009, 199 giorni nello spazio fra il 2014 e il 2015. Ma forse non tutti ne conoscono nei dettagli il percorso di formazione. Allora faccio un breve sunto. Diploma al liceo scientifico a Trento, dopo aver trascorso il quarto anno all'estero con Intercultura, in particolare lavorare negli Stati Uniti, in Minnesota. Nel 2001 laurea alla Technische Universität di Monaco di Baviera in Germania, con una laurea in ingegneria meccanica, specializzazione in propulsione aerospaziale e strutture leggere. Questo dopo 4 mesi in Erasmus all'École Nationale Supérieure dell'Aéronautique et de l'Espace di Tolosa, in Francia, lavorando su un progetto sperimentale in aerodinamica. Poi tesi di master in propellenti per razzi solidi all'Università Mendeleev delle Tecnologie Cliniche a Mosca, in Russia. Dunque, per non farsi mancare nulla, laurea in scienze aeronautiche all'Università di Napoli Federico II. In particolare, che ricordi ha dell'Erasmus? Come scelse Tolosa? Perché scelse l'Erasmus? E poi quanti anni aveva? Era il 2000, quindi avevo 23 anni. Beh, l'Erasmus, diciamo, quella è stata, credo, una cosa scontata, nel senso che a me piaceva. Prima lei ha fatto un cenno al mio curriculum, quindi credo che si capisca, a me è sempre piaciuto non tanto viaggiare, non sono chissà quale viaggiatrice, ma avere delle occasioni proprio di vivere in posti diversi, di imparare diverse lingue, di interagire con le persone del posto come se fossi un po' una di loro. Le ho sempre cercate, questa occasione mi è sempre piaciuto proprio a livello istintivo, e quindi appena ho iniziato l'università, che già non era in Italia ma era in Germania, ho iniziato quasi subito a informarmi su quali poi fossero le opportunità durante il percorso universitario di passare poi dei periodi in altri paesi. L'Erasmus è, diciamo, l'occasione più scontata, più semplice, che è a disposizione degli studenti e delle studentesse universitarie. Ho scelto Tolosa perché c'è questa, insomma, mi piaceva l'idea di approfondire anche un po' la lingua, il francese, perché l'avevo studiata a scuola, ma insomma un po' dimenticata poi negli anni. E poi la Francia ha questa tradizione di queste scuole di ingegneria, le seconde ingegner, che è un po' diversa rispetto, diciamo, alle università, ai politecnici degli altri paesi, quindi insomma un po' mi incuriosiva. E a Tolosa, tra queste grandi école, quella, diciamo, specializzata sugli aspetti aerospaziali, appunto questa scuola di Tolosa che si chiama Sibaero, e quindi insomma è stato un po' scontato andare lì. È stato interessante perché effettivamente è un sistema completamente diverso, sono appunto un po' meno università, un pochino scuole, sono su questi campus chiusi, hanno un sacco di risorse, molto ricche come università, e quindi ho avuto la possibilità di fare, non ho frequentato lezioni, ho fatto una tesi sperimentale, una tesi intermedia sperimentale. Dove alloggiava, ad esempio, durante questo Erasmus? Dentro questo campus, cioè proprio un campus un po' stile all'americana, dove ci sono proprio questi alloggi dentro per gli studenti. È la prima volta che ho vissuto in vita mia avere internet nella mia stanza, cioè no. Wow. Sembrano cose veramente da medioevo a pensarci adesso, ma insomma nel 2000 non era così scontato, certo. Un accesso internet veloce, in particolare sul proprio computer, e lì insomma appunto era un po' una scuola di geek, e quindi gli studenti e le studentesse stesse si erano organizzati per avere questo accesso internet molto veloce nel dormitorio, quindi questa cosa sicuramente mi è rimasta impressa. Senta, ha avuto pure il tempo di divertirsi un po' durante l'Erasmus, perché sì, diciamocelo, fa parte anche, no, del pacchetto Erasmus. Sì, poi devo dire, molto spesso succede, si crea anche una complicità particolare proprio tra gli studenti Erasmus, quindi insomma ci sono sempre un sacco di iniziative, di uscite, di feste, fa credo parte un po' dell'esperienza Erasmus in tutta l'Europa. Senti ancora qualcuno dei suoi ex compagni di quel periodo? Le è capitato di rincontrarli nella sua lunga carriera ormai? Dunque, rincontrarli in maniera così, diciamo, estemporanea mi è capitato qualche volta, perché poi alla fine il mondo aerospaziale è un po' una grande famiglia, prima o poi ci si ritrova tutti, e sicuramente almeno con una persona sono rimasta molto amica, insomma è rimasta una delle mie più care amiche, insomma le più vicine. Differenze nello studio fra la Francia e l'Italia? Diciamo l'Italia la conosco poco, appunto perché ho studiato in Germania. La grossa differenza comunque che ho notato, anche parlando con anche con colleghi e colleghe che venivano dalle università italiane, e appunto che non è una vera e propria università, no? queste grandi école d'ingénieurs sono appunto delle école, delle scuole, quindi c'è un modo di seguire, sono piccoli gruppi, sono molto seguiti, cioè diciamo in università difficilmente il professore o la professoressa si fa problema se oggi qualcuno non è venuto. Perché voglio dire, si è adulti responsabili, uno va a lezione, non ci va, certo. Un problema suo, diciamo. E invece lì c'è sono molta più attenzione, come mai non sei venuto? Ah, ecco, eravate un po' più, vi tenevano un po' più il fiato sul collo da questo punto di ripeto, vista. Non io personalmente, perché come dicevo non ho frequentato lezioni, però confrontandomi con anche, ripeto, studenti e studentesse che venivano dall'università italiana, loro notavano questa differenza. In cosa l'ha fatta crescere a lei quell'esperienza? Non in particolare soltanto l'Erasmus, ma tutta l'esperienza che ha fatto nel corso della sua vita e soprattutto nel corso della sua formazione all'estero. Benefici, vabbè, non c'è solo quello pratico delle lingue, ma c'è anche quello proprio, diciamo, di crescita e di formazione personale che deriva un po' da uscire dal proprio gusto, dalle proprie routine, dalle proprie abitudini, dallo scrostare certe come dire, assumptions che si fanno, no? Certe ipotesi, magari si pensa che tutti facciano così, tutti la pensano in un certo modo e ci si rende conto che insomma il mondo è grande, ci sono tanti modi di fare le cose, tanti modi di pensare. Grazie dunque a Samantha Cristoforetti, a Maria Piera Ceci, naturalmente a Alessandro Schirano, a Roberta Frisani, tanti auguri anche in ritardo, ma comunque spero che valgano lo stesso, che appunto ha curato la regia di questa trasmissione. Adesso per tutti noi GR24, quindi gli aggiornamenti dalla cronaca, e per Europa Europa ci risentiamo la prossima settimana.